in primo piano. Venerdì 25 marzo, i giornali in edicola aprono con scelte molto diverse. Il Sole 24 Ore, tre nuovi patti per l'Europa. Il vertice dei 27 col salvataggio di Lisbona che cambia l'agenda del summit. Tra l'altro vi voglio ricordare che oggi il Sole 24 Ore esce con la prima edizione di una collana nuova dedicata alla filosofia in 16 DVD. A partire da oggi la filosofia raccontata in DVD da grandi filosofi contemporanei. Si parte oggi con i presocratici e la nascita della filosofia raccontata da Emanuele Severino. Le aperture degli altri giornali sono la Libia, comando NATO per difendere i civili, così apre il Corriere, come Repubblica, attacco alla Libia, NATO al comando, e la Stampa, Libia sia il comando NATO. Per Libero, la situazione in migrazione, i disperati tutti al nord. E anche l'Unità apre su Lampedusa con un altro taglio, i bambini ci guardano, emergenza minori a Lampedusa. Vedremo poi altre aperture, ma voglio partire con le segnalazioni. La prima dal Corriere della Sera, di quelle che mi mettono di buon umore. Poi sembra, le mettono sempre al venerdì questi articoli sui costi della politica, no? Proprio per allietarvi il weekend. Saltano di nascosto i tagli alla politica. Sergio Rizzo a pagina 19 del Corriere della Sera. Trasudavano indignazione le parole di Marco Marsiglio. Pretendere che lavorino gratis o rimettendoci di tasca loro significa allontanare i cittadini onesti e normali dalla politica e dalle istituzioni. Era il deputato del PDL, ce l'aveva con la manovra economica di Giulio Tremonti, che aveva abolito le indennità dei consiglieri circoscrizionali. Ma racconta Sergio Rizzo, è durata poco. Dopo 6 mesi il gesto riparatore, nel silenzio più totale, con una norma infilata nell'ultimo provvedimento, proprio quello che reintegra i fondi del FUS, con l'aumento delle accise sulla benzina, una norma piccola piccola che triplica il numero di ore di permesso retribuito ai consiglieri circoscrizionali di Roma, portandole da un quarto di quelle spettanti ai consiglieri comunali a 3/4. Cosa significa in concreto? Che se prima un consigliere circoscrizionale poteva assentarsi dal posto di lavoro per 1 ora al giorno, oggi può ritornare dopo 3 ore e il costo relativo viene addebitato dal suo datore di lavoro al comune. E poi un'altra norma, piccola piccola, un articolo col quale viene stabilito che il taglio del 20% del numero di consiglieri comunali deciso l'anno scorso, entrato in vigore dal 1 gennaio 2011, non si applica alle città con una popolazione superiore al 1 milione di abitanti. Dunque Roma e Milano si potranno tenere i 60 consiglieri comunali e non scendere a 48 perché hanno più di 1 milione di abitanti. Ci avevano già provato. Il Quirinale aveva detto, aveva mostrato grande perplessità, e pare che, scrive Sergio Rizzo, ancora ci sia un'attenzione del Quirinale che ha messo sotto osservazione questo salvataggio di poltrone. Il Quirinale chiede di togliere una norma da un decreto legge e nemmeno un mese dopo se la ritrova sotto il naso in un altro decreto legge? Non sarebbe sorprendente se anche questo aspetto della vicenda venisse considerato nuovamente inaccettabile. Così si conclude l'articolo di Sergio Rizzo, saltano di nascosto i tagli alla politica. E poi la seconda segnalazione è quella di una mega truffa che per la verità era già stata anticipata dal Sole 24 Ore, da Plus 24 qualche tempo fa, e che oggi pare venuta alla luce grazie all'intervento della Guardia di Finanza. Il Sole 24 Ore in prima pagina lo definisce il Madoff de Noaltri, tra Parigi e i Parioli, in un articolo di Alessandro Platerotti, in un corsivo, e con poi l'articolo all'interno a pagina 42, 5 arresti per il crack EGP. Una società che prometteva soldi facili investendoli in finanziare, in offshore, in finanziare poi tutte un po' strane, tutto un intreccio. Era la classica truffa con un meccanismo noto. Per remunerare gli investimenti promessi a un cliente, il gestore usa il denaro versato da altri clienti, ma se scende il mercato o crolla la raccolta, nessuno riceve più nulla. Il classico meccanismo di raggiro che però ha preso dei clienti della Roma bene. Spariti 170 milioni, 5 arresti, e chi sono i clienti di questa società? Sabina Guzzanti avrebbe versato investito 408.000 euro e 28.000 ne avrebbe perduti. Massimo Ranieri, il cantante, Samantha De Grenet, una showgirl. Per Libero è così, anche Paolo Guzzanti, il padre di Sabina. L'attrazione per i soldi facili ha gabbato attori e nobili, così la pone Libero. Finanziaria prospetta interessi fino al 12% e poi non paga. Tra le vittime Sabina Guzzanti e suo padre, Massimo Ranieri e la principessa Ruspoli. Anche sul Corriere la grande truffa a nobili e attori. Spariti 170 milioni tra i clienti, anche Sabina Guzzanti e Massimo Ranieri. Sono i nomi che fanno più scalpore. E c'è la foto proprio del precedente, anche qui, di Madoff. Il Madoff de Noantri ha colpito, pare, a Roma. Voglio partire sempre dall'attualità internazionale della Libia, che in realtà coinvolge anche la politica italiana. Belle notizie intanto sul campo militare sono due. Il comando passerà, pare, finalmente alla NATO, come chiede l'America, come chiede l'Italia, come chiede la Gran Bretagna, come non voleva la Francia, ma pare che Sarkozy abbia dovuto cedere tutto il comando alla NATO. Questo succederà nei prossimi giorni. Mentre dal punto di vista politico italiano c'è stato ieri il via libera alla missione, anche se solo per 7 voti, come titola pagina 5 il Corriere della Sera. L'opposizione non appoggia il testo di PDL e Lega. Tra l'altro ci sono state anche delle risse verbali notevoli. Si è distinto come al solito Antonio Di Pietro, che ha dato del coniglio sia a Berlusconi che a Frattini, che in quel momento si è alzato, se n'è andato, e allora, abbandonando l'aula, Di Pietro si è arrabbiato: non faccia il coniglio, perché prima gli aveva dato, credo, l'aveva appellato sempre come un giullare, insomma, il ministro degli esteri. E allora, tra l'altro, questo da spunto di fare la prima pagina del giornale contro Fini. Il coniglio Fini, questo è il titolo, leader da circo. Tra l'altro c'è anche un grande disegno a prima pagina con Di Pietro che tiene Fini per le orecchie da coniglio. Di Pietro dà il codardo a Berlusconi in aula, il presidente della Camera se la ride. Quindi il giornale torna all'attacco di Fini per quello che è successo ieri alla Camera. Sta di fatto che c'è anche una sorta di processo, tra virgolette, agli assenti, perché la mozione è passata per 7 voti e c'erano 12 assenti tra le opposizioni. Per cui, insomma, è chiaro che questi 12 assenti decisivi, 5 di Futuro e Libertà, 5 del Partito Democratico, 2 dell'UDC, sono ora sotto l'occhio del ciclone, nell'occhio del ciclone. Tra l'altro, un Berlusconi che viene definito come furibondo proprio per questa situazione di 7 voti passati. Di una mozione passata per soli 7 voti. Oh, però bisogna andare a qualche retroscena, che per la verità i retroscena spesso ci azzeccano, anche perché quando li propongono tutti i giornali vuol dire che qualche verità c'è. Berlusconi a Bruxelles, è giunto a Bruxelles appunto per il vertice dell'Unione Europea, ma gli aggettivi che vengono associati al Premier in questi giorni per la situazione in Libia sono angosciato, preoccupato, pieno di dubbi e timori. Ecco qui, per esempio, La Stampa, pagina 3, l'angoscia di Berlusconi, trascinato in guerra. In questa avventura libica, a trascinarlo obtorto collo sarebbero stati Franco Frattini, Gianni Letta e Ignazio La Russa, con l'autorevole sponda del presidente della Repubblica Napolitano. Il kingmaker, a suo giudizio, sarebbe però proprio Frattini, in presa diretta con l'amministrazione americana. È un cavaliere che è dato per angosciato, dice di non conoscere i leader dei ribelli, anzi alcuni li conosce bene, sono persone che fino all'altro ieri stavano col colonnello. La domanda che continua a fare a Frattini è: come possiamo fidarci di quelli di Bengasi? E poi ragiona Berlusconi in questo virgolettato sulla Stampa a lui attribuito: è mai possibile che il nostro interesse è portare democrazia e libertà sempre nei paesi dove c'è il petrolio? Allora, se dovessimo seguire questo criterio, dovremmo dichiarare guerra a mezzo Medio Oriente. Però guardate anche su Repubblica: trascinato da Letta e Frattini in guerra, mi riscatterò tentando di mediare. Era difficile fare diversamente. E anche sul Giornale, quindi un quotidiano molto vicino a Silvio Berlusconi. Berlusconi è un rischio rappresaglie per l'Italia, scrive ad Alberto Signore, A mezza bocca lo va dicendo da giorni, tanto che mercoledì l'ha buttata lì durante un conciliabolo, in una cena con i responsabili, ma pubblicamente certo non potrà mai manifestare preoccupazione per le ritorsioni della Libia sull'Italia. Sarebbe da incoscienti, però c'è anche questa preoccupazione di possibili ritorsioni da parte di Gheddafi, dei gheddafiani sull'Italia. Insomma, un premier che si dice angosciato, o si sarebbe angosciato e si direbbe trascinato in suo malgrado in questa situazione da alcuni suoi ministri, ma anche da Gianni Letta e dal Presidente della Repubblica Napolitano. Poi ci sono molti giornali che trattano la questione Lampedusa con vari tagli diversi. Beh, intanto mi ha colpito molto a pagina 5 del Secolo XIX, infatti il Secolo ci titola, il grido del vescovo sul centro di Lampedusa sembra un canile. Questo ha detto il vescovo Francesco Montenegro, ex presidente nazionale della Caritas, sconfortato. Non si può vivere con gente che passa la notte sotto l'acqua sulla banchina del porto e che deve stare come in un canile. C'è l'Unità che titola a prima pagina il dramma dei minori abbandonati a Lampedusa, i bambini ci guardano, l'emergenza minori a Lampedusa, minori dimenticati, un bambino di 14 anni, un ragazzino per esempio arrivato da solo dalla Tunisia, da allora nessuno si è curato più di lui. E tra l'altro dice l'Unità, secondo un'intervista di un avvocato di Genova, ci sono anche gli estremi per denunciare l'Italia per abbandono. E poi c'è la vicenda di come verranno smistati gli eventuali richiedenti profughi. E perché il sindaco di Roma, Alemanno, ha scritto a Maroni e ha detto: a Roma niente profughi. Ne ospitiamo già 8.000 di rifugiati politici. La Polverini, presidente della regione, ha rincarato la dose, ha detto: Lazio è in difficoltà. E dunque niente. Tanto che Libero, eccolo qui, prende spunto per titolare molto polemicamente in prima pagina su questa vicenda: i disperati tutti al nord. Maroni esclude Roma, grazie alla Sicilia, la Calabria, Puglia e l'Abruzzo, alla faccia dell'Unità d'Italia. E a pagina 2, ecco qua, la notizia non è ufficiale, ma appunto già Alemanno ha detto che non verranno, nessun profugo verrà a Roma. Autogol leghista, i profughi finiranno quasi tutti al nord. Questo titola Libero, coltelli d'Italia sui disperati, l'Unità è soltanto un ricordo. Staremo a vedere. Tra l'altro noi alle 8:20 per parlare di federalismo, ma non solo, anche di questo, visto che il presidente della regione Reggio Emilia, avremo Vasco Errani nell'intervista alle 8:20, gli chiederemo anche di questa insomma disponibilità delle regioni, come procede questo piano per la redistribuzione degli eventuali profughi richiedenti asilo che verranno in Italia. Oh, però io devo rimanere su Libero perché c'è un retroscena molto curioso, molto interessante, no? Perché Salvatore Dama, pagina 13, abbiamo detto dell'angoscia di Berlusconi secondo molti giornali, in realtà Libero racconta una cena che si è svolta mercoledì, Berlusconi con tutti i responsabili. Sapete che nelle cene Berlusconi dà il meglio di sé, tra barzellette, canzoni, eccetera. Confisco e giustizia, rivinco le elezioni. Salvatore Dama racconta in cronaca quasi diretta questa cena di Berlusconi con i responsabili. Il companatico di tutte le cene sono i sondaggi. Ne ha tirati fuori due Berlusconi su fisco e giustizia. Se portiamo a termine le due riforme entro fine legislatura, dimostriamo che nonostante i giudici e il tradimento di fini, manteniamo le promesse e vinciamo. Tira fuori i sondaggi, sono impressionanti. Quello sulla responsabilità civile dei magistrati a percentuali bulgare. Eccolo qui, Berlusconi a cena con 29 responsabili, che accoglie così: non smetterò mai di ringraziarvi. Dice: a un certo punto ero pronto a mollare, Fini metteva sempre i bastoni tra le ruote, avevo perso il gusto di governare. Ora è diverso, è vero, abbiamo numeri ristretti, ogni tanto discutiamo, ma facciamo le cose che dobbiamo fare. Ce l'ha con Casini. Poteva avere 11 posti di governo per suo partito, ma è troppo egoista, pensa solo a se stesso. E poi le nomine, datemi una decina di giorni e nominerò i sottosegretari. In Consiglio dei Ministri approveremo un disegno di legge per ampliare la squadra di governo da 62 a 72 membri. Sarà un provvedimento che seguirà una corsia preferenziale in Parlamento e sarà legge in pochi mesi. Insomma, un Berlusconi che poi a un certo punto si è messa anche a cantare. Il bersaglio è Gianfranco Fini sulle note della canzone di Julio Iglesias, il grande successo Se mi lasci non vale, e però con le parole modificate, più o meno è: se ci lasci è un affare, se ci lasci è un affare, non c'è niente di male, non c'è niente di male. Questa dedicata a Fini, ma poi ci sono anche tutto il ritornello che non conosco il motivo come faccia, ma insomma tira dentro Monte Carlo, la Ferrari, cioè vai con una, prenditi la Ferrari per non fare più danni alla camera. Questo è, ma se ci lasci non vale. No, com'è? Se ci lasci è un affare, se ci lasci è un affare, non c'è niente di male. Questa dedicata a Gianfranco Fini, pare che Berlusconi l'abbia cantata con grande trasporto. Va bene, dal punto di vista del governo ci sono poi anche altre novità. Una è quella dedicata alla cultura, è il tema del nostro sondaggio, lo sapete, e vale a dire tassa sulla benzina per sostenere la cultura, per recuperare i fondi per la cultura. È il tema del nostro sondaggio e tra l'altro oggi Michele Serra nella Maca la definisce una scelta furbissima. Il governo ha restituito qualche milione di euro a cultura e spettacoli caricandoli sul prezzo della benzina. E così Il Giornale ha potuto sparare ieri in prima pagina il ridicolo titolo «Benzina più cara? Colpa di Nanni Moretti», che aggiunge alla montagna d'odio accumulata negli anni contro la cultura radical chic un'ulteriore cucchiaiata di cacca. E d'altronde di questo ci occupiamo. Io voglio segnalare che Galan, il neo ministro della cultura, viene intervistato dalla Stampa, pagina 12, dice: «Bondi ha molti meriti». Così come li ha Gianni Letta sul FUS, sono stati loro a insistere col tesoro affinché i tagli fossero colmati. E poi dice: io d'altronde da ex presidente del Veneto so benissimo, insomma, che con la presenza di due enti lirici, due fondazioni, non potevano ritenere che tagliare e negare i fondi per lo spettacolo fosse un fatto grave. Si può scegliere di finanziare Verona e non Venezia? È possibile tagliare risorse alla Fenice? E poi ora il primo atto sarà affrontare l'emergenza partendo da Pompei. E infine dice: troppi, due festival del cinema, Venezia e Roma. Il festival del cinema in Italia è quello di Venezia. Per il cinema c'è solo Venezia. Sono stato il primo a dire, e ricordo che dissi: esiste un festival del cinema a Parigi, in Germania, in Svizzera? No, esiste a Cannes, a Berlino, a Locarno. E Venezia è il festival del cinema più antico del mondo. Parla il ministro e anche il Veneto Galan, che dice: di festival ne basta uno. Quanti nemici per avere salvato il governo. Così il neo ministro dell'agricoltura Saverio Romano parla al Giornale, intervistato da Paola Setti. Sapevo che in Italia bisogna difendersi dalle sentenze nei processi, non da una richiesta di archiviazione dopo 8 anni. Intanto lei è un presunto colpevole, non vedo come. È un Saverio Romano deluso. La mia azione politica ha deluso chi pensava che il 14 dicembre cadesse il Premier, ora sono costretto a difendermi da una richiesta di archiviazione. Tra l'altro c'è nuovi sviluppi sulla sua vicenda giudiziaria, perché lui è indagato in due vicende. Una, quella per la quale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, associazione esterna alla mafia, ma il GIP non si è ancora pronunciato. L'altra invece è corruzione. Contro Romano una nuova mossa dei PM. A pagina 17 il Corriere della Sera dice che sull'accusa di corruzione i magistrati sono pronti a chiedere l'utilizzo delle intercettazioni, di alcune intercettazioni tra Saverio Romano e un tributarista, Gianni Lapis, condannato a 5 anni per il riciclaggio del tesoro dell'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino. L'obiettivo per ottenere dalla Camera l'autorizzazione appunto a utilizzare queste telefonate. Tra l'altro il Fatto Quotidiano tutte le telefonate già le mette sotto il titolo di prima pagina: Il governo di Gomorra. Le mette a pagina 2. Ecco le carte dell'inchiesta sul neo ministro dell'agricoltura, tutti i rapporti pericolosi con i boss siciliani. E anche Repubblica, Palermo, i PM sulle tracce di Romano, chiederemo di usare le intercettazioni. Tra l'altro queste intercettazioni, una viene pubblicata anche da Repubblica, ci sarebbero Ciancimino, il figlio di Ciancimino, il figlio di Vito Ciancimino, dell'ex sindaco, e questo tributarista Lapis, che parlano nel 2004, e il figlio dell'ex sindaco dice: ma 300.000 euro per Romano non sono troppi? E Lapis risponde: no, una parte sono per il presidente. Scrive Repubblica: il presidente sarebbe Cuffaro, l'ex governatore della Sicilia in carcere. Vabbè, questa insomma è la vicenda Saverio Romano. Noi, ripeto, ci occuperemo anche alle 8:20 di federalismo. Federalismo che ieri ha avuto un passo importante, un passaggio importante, il passaggio e l'approvazione in Parlamento sul federalismo regionale. Sarà nostro ospite alle 8:20 per parlarne il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. Addizionale IRPEF sbloccata dal 2013, così titola pagina 8 Il Sole 24 Ore. Ci sono delle importanti novità. Proprio dopo questo via libera alla commissione bicamerale al quinto decreto attuativo del federalismo fiscale, la prima è questa proprio di novità: l'ok al blocco fino al 2013 delle addizionali IRPEF, e tra l'altro le regioni hanno incassato anche 425 milioni da investire sul trasporto locale e anche una fiscalizzazione di altri 1,6 miliardi per il 2012. Poi a pagina 10 del Sole 24 Ore Gianni Trovati racconta come le modifiche dell'IRPEF, che sono bloccate comunque fino al 2013, potranno incidere sui redditi. Sotto tutela solo i redditi fino a 15.000 euro. Gli aumenti dell'addizionale oltre l'1,4% escluderanno le entrate del primo scaglione, vale a dire 10 milioni di persone. Ma gli effetti nel tempo sono tutti dettagliati, delle tabelle molto molto precise in base al reddito che avete, e potete studiare a pagina 10 del Sole 24 Ore. Che c'è da dire ancora? Che ieri è stato un altro passo importante anche per quel che riguarda la giustizia, dove è apparsa una norma un po' a sorpresa secondo molti, vale a dire una norma che allargherebbe la responsabilità civile delle toghe. È stata già definita norma Pini, perché l'ha voluta un deputato leghista, Gianluca Pini, che ha modificato i confini oltre i quali già dal 1988 il magistrato può essere ritenuto civilmente responsabile, cioè per dolo o colpa grave. Allargato i confini, ora il magistrato, se passerà questa norma, potrà essere anche responsabile per tutto ciò che comporti manifesta violazione del diritto. Che insomma è un concetto un po' vago così, ma insomma va... andremo a capire di cosa si tratta. Contro i PM, infatti, la norma Pini, così la titola, la definisce l'Unità. Chi sbaglia paga di tasca sua. Io in conclusione voglio solo ricordare che oggi c'è anche in edicola il numero mensile di 24 con il Sole 24 Ore. Sapete che il numero è monotematico. Questa volta è dedicato tutto molto interessante alla Cina. Beh, paese molto affascinante, paese in evoluzione, paese ancora per tanti tratti misterioso. La Cina, con tantissimi articoli, ne voglio segnalare due. Il primo è il racconto della Cina attraverso il racconto di tre personaggi che 24 ha seguito: una stilista, un contadino e un manager, seguiti passo passo per la giornata e raccontando attraverso loro lo sviluppo di questo grande paese. E il secondo articolo invece è quello di un avvocato di Portogruaro che da anni ormai si è integrato e vive con le compagnie, con le aziende cinesi, e racconta anche tutte quelle normative, tutti quegli atteggiamenti, comportamenti per destreggiarsi nelle regole non scritte che governano le relazioni di lavoro in Cina. Una cosa molto diversa rispetto a quanto accade in Italia. Tutto questo su 24. Ora ci fermiamo per il giornale radio.